Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti alla seconda puntata dedicata all'agosto in città. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si occupa di voi che siete rimasti in città, di voi che non siete partiti, oppure anche di voi che siete partiti ma che vi volete ricordare di quegli agosto di città deserte come era una volta, perché adesso effettivamente non è più così. Però quelle città deserte, quella solitudine gentile che ti veniva a svegliare al mattino e sembravano queste giornate infinite. Io mi ricordo le mie giornate da bambino, da bambina in agosto erano sempre lunghissime. E quindi oggi si parla di voi che non sapete come occupare la vostra giornata perché siete rimasti a casa. Voi che siete magari parte di quel 46% di italiani che appunto non è riuscito a partire quest'anno perché non si vedono più le città deserte di una volta, le città di gente che partiva con la macchina carica di bagagli sul tetto, che sembravano più che delle vacanze, sembravano dei traslochi. Comunque, ve le ricordate le vostre vacanze? Sì, o vi ricordate le vostre città d'agosto deserte, quella lentezza, quelle giornate infinite, quelle giornate che sembravano non finire mai, le saracinesche abbassate, i chiuso per ferie su tutti i negozi, insomma questa vita che sembrava prendersi una pausa in agosto. E perché effettivamente durante tutto l'anno si vive ad una velocità incredibile, si vive l'effetto velocità, e almeno ad agosto vorremmo dimenticarcelo. Io lo so poi come va a finire, io non si mette a correre come dici tu. Accelera. Non riesci più a decelerare. Ma cosa stai dicendo? Guarda che uno passa la vita a farsi dire che prima è troppo giovane, poi dopo diventa troppo vecchio. Ci sarà una fase centrale in cui uno deve correre, no? L'effetto velocità servirà, no? Ci sarà un motivo. E ci sarà un motivo per l'effetto velocità. Io sono un po' d'accordo con Abbattantuono, questo era Tournée. È vero, noi viviamo tutto l'anno in questo effetto velocità e poi uno dice: ma no, prenditi una pausa. E di solito quella pausa è il mese di agosto, questo momento di lentezza. Ma raccontateci le vostre storie, la vostra lentezza d'agosto all'800 24 00 24 oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. Come state facendo a fare i conti anche con la vostra quotidianità, perché la quotidianità in agosto appunto subisce un rallentamento, ci sono cose che cambiano, ma cambiano anche se non vogliamo, perché in agosto, non so, sembra che siamo tutti più gentili, abbiamo questo spirito vacanziero che anche se siamo appunto in città ci sembra che ci avvolga tutti, no? E quindi parliamo, siamo più cordiali con i vicini di casa, siamo più amichevoli con le persone che incontriamo per strada, perché pensiamo è rimasto a casa anche lui, magari un po' mi somiglia, un po' mi può capire che cosa sto provando in questo agosto in città e in questo agosto di sospensione dell'effetto velocità di cui parlava Abbattantuono. Quindi raccontateci le vostre storie all'800 24 00 24 o i vostri messaggi al 349 238 6666. Ieri era la prima puntata dedicata all'agosto in città e ci è arrivata anche una email, infatti potete anche scriverci le vostre email ad agosto@radio24.it e ve la voglio leggere perché è veramente divertente. Allora, io per l'agosto in città ho sperimentato da anni una formidabile tecnica di sopravvivenza. Essendo costretto per motivi di lavoro a trascorrere in città il mese di agosto, spedisco al mare mia moglie ed il gioco è fatto. Certo, non capita quasi mai che l'appartamento sopra il tuo sia stato preso temporaneamente in affitto da una Marilyn Monroe nella sua forma più seducente e svampita, che fa battute del tipo: questa è musica classica, l'avevo capito perché non cantano. Qui a Brescia inoltre non abbiamo la metropolitana, per cui posso solo vagheggiare la scena della gonna che si alza sopra la presa d'aria della metro di New York. Ma a parte questo, Adriano da Brescia, grazie mille. Quindi scriveteci le vostre storie, sono storie divertenti dei vostri agosto in città e magari anche di cosa vi può capitare se siete rimasti soli e avete spedito la moglie in vacanza. Anche oggi, come ieri, abbiamo un'ascoltatrice con noi che si è iscritta per bere un caffè con noi, per raccontarci del suo agosto in città. E fra l'altro lei fa anche un lavoro, ma lo scopriremo dopo, un lavoro che può servire per così superare il malumore, qualora ce ne fosse, per chi è stato costretto a rimanere a casa. Ma ne parliamo più tardi. Ma abbiamo detto agosto, tecniche di sopravvivenza per una quotidianità che rallenta, una quotidianità che deve adattarsi ad un nuovo modo di andare avanti, ad un nuovo modo di vivere. In realtà agosto non è più il mese in cui le città si svuotano, però ci sono delle situazioni che possono ricorrere in un certo senso. Ma vediamo se vi riconoscete in questa scheda. Stufo di mangiare tonno in scatola e patatine. Ti senti pronto per superare l'idiosincrasia verso i grossi centri commerciali, gli unici aperti. L'anguraio all'angolo è il vostro nuovo migliore amico. Proprio oggi avresti voluto confessarti, ma la chiesa vicina a casa è di turno, come il vostro bar preferito. Una giornataccia. Oggi in ufficio ti hanno guardato storto, forse perché eri in giacca e cravatta, ma con l'infradito? Vai tutti i giorni in palestra perché quando ti ricapita di trovare tutti i tapis roulant liberi? Che meraviglia trovare parcheggio subito. Peccato che esci poco e non hai mai l'occasione per spostare la macchina. Vi siete riconosciuti? 800 24 00 24 per raccontarci del vostro agosto in città e i vostri messaggi al 349 238 6666. Ne è arrivato uno da Max che dice: faccio il personal trainer e durante l'anno lavoro 13 ore al giorno. In agosto non vado mai in vacanza per fare quello che non riesco a fare durante l'anno. Raccontateci appunto qual è questa lentezza, questo spazio che vi state prendendo per voi in questo agosto in cui siete rimasti in città. Ma siete magari appunto rimasti in città, non avete fatto, non farete le vacanze lunghe, ma farete gli short break, che sono queste vacanze brevi di 3-4 giorni, che possono essere dei weekend lunghi magari. Siete gente che parte magari il giovedì e ritorna il lunedì per prendersi comunque una pausa dall'agosto al lavoro, perché adesso sembra che vadano per la maggiore questi appunto cosiddetti short break. Addirittura la Lonely Planet ha dedicato un'intera collana a questo tipo di viaggi. Uno psicologo comportamentale della Wharton School dell'Università della Pennsylvania, un tale Gal Zauberman, fra l'altro dice che sarebbe bene organizzare delle interruzioni strategiche durante il viaggio per ricavarne il massimo. Quindi anche se avete un mese di vacanza, sarebbe bene proprio interromperla ogni tanto, perché anche in viaggio si tende a ricreare una certa routine, no? Una certa quotidianità, e invece in vacanza ci sarebbe bisogno di essere sempre a contatto con la novità, con le cose nuove. Quindi interromperla può dare anche dei benefici. Se ci pensate bene, in fondo si è sempre più felici quando si organizza un viaggio piuttosto che quando si è dentro il viaggio, no? Oppure quando lo si ricorda, perché ricordare un viaggio, chissà come mai, il ricordo è sempre, anche se sono successi disastri durante una vacanza, il ricordo è sempre il viaggio più bello della nostra vita. Quindi quest'anno si parte meno, come abbiamo detto, perché il 46% degli italiani è rimasto a casa, si parte e si fanno viaggi più corti, quindi si parte per meno tempo, però la spesa è più alta. La spesa media del 2009 era di 946 euro a persona e quest'anno invece è di 1022. Non lo so, la maggior parte fra l'altro delle persone non ha un budget superiore ai 700 euro. Queste sono cose strane. Ma voi che non siete partiti, pensateci bene, una bella estate in città non è poi così male, se non solo per i soldi risparmiati. E lei mi fa perché di qua, perché di lì, non mi porti mai in vacanza, finisce sempre così. E io vorrei portarti ai tropici, però ho visto al TG che presto i tropici verranno qui, quindi... Agosto, tecniche di sopravvivenza, sono le 10:19 e oggi stiamo parlando della quotidianità del vostro agosto in città, quindi voi che non siete partiti. Ma scriveteci al 349-238-6666 per raccontarci del vostro agosto in città, della vostra lentezza, di quello che state facendo fuori dalla routine, perché comunque vi state prendendo degli spazi per voi. Oppure chiamateci all'800 24 00 24 e ne parleremo insieme. Come abbiamo detto, agosto è un mese in cui si devono fare i conti con un sacco di cose, quindi magari se si abita in periferia, anche con i negozi chiusi e quindi con la quotidianità che si deve riadattare a quello che ci succede intorno. Ma noi abbiamo al telefono oggi Francesca Sassoli, una giornalista che ha fatto un esperimento incredibile e che forse ci può tornare utile come tecnica di sopravvivenza. Ciao Francesca. Ciao. Ciao, ciao. Raccontaci un po' la tua esperienza. Qual è questo esperimento? La mia esperienza è un blog, si chiama Francesca Online, e praticamente sto cercando di vivere grazie solo al commercio elettronico. quindi dalla spesa alle scarpe, dal ciabattino alla ricetta per insomma fare il pane, tutto tramite l'online. Per il momento devo dire che grazie anche alla città dove vivo, Milano, l'esperimento insomma sta andando bene, nessuno sta patendo la fame e grazie anche a una buona connessione e l'esperienza poi pian piano diventa sempre più grande, perché comunque bisogna essere un po' tra virgolette manettoni e si può veramente acquistare tutto online. Tutto, quindi tu acquisti qualunque cosa online? Assolutamente sì, le cose che sono piaciute di più, soprattutto le donne, la tintoria online, non andare con quintalate di roba a fine stagione a portare in tintoria, ma un uomo che ti viene a ritirare tutto e te lo riconsegna lavato, stirato e profumato. Ah, quindi dire che questa è già una cosa fantastica. Quindi perfetto, se uno si trova in città, quindi a Milano magari in agosto, può fare tutto, avere tutto a portata di click, come si dice. Assolutamente sì, c'è il supermercato, diciamo principe della zona del milanese, Selunga, che fa un servizio molto accurato, e al supermercato c'è veramente tutto, dalla pila al piccolo elettrodomestico, qualsiasi cosa. Quindi veramente in tempo 2 o 3 giorni, sì, anche ad agosto, tutta la roba che ti serve. Ma quindi questa è una ottima tecnica di sopravvivenza, direi, per chi rimane in città, se non può uscire, non può andare a fare la spesa. Beh, devo dire che io sto spingendo molto l'online proprio per la comodità, sia dei tempi, perché o stai lavorando o non puoi. Fare la spesa online ti permette anche di sceglierla nel cuore della notte. Io ho fatto una spesa a 12:30 con un bambino e cane che russavano, è stato bellissimo scegliere tutti i produttini guardandoli, fare il mio carrello elettronico, e devo dire che è anche buono per i prezzi, perché comunque hai più tempo, ponderi di più. Ma come ti è venuta questa idea? Ma devo dire che a me piacciono molto le sfide, e dato che io, essendo mamma singola, lavoratrice con cane e casa da portare avanti, era tutto molto complicato. L'online, si dice sempre, è la risorsa per qualsiasi tua esigenza, vediamo un po' se è vero. Bene. E quindi come giornalista ho pensato di farne un'indagine, per cui i punti critici li scopri soltanto se ti privi di quello che viene chiamato l'acquisto offline, quindi andare direttamente in un negozio. Certo, che è un po' una perdita di tempo, insomma, in certe situazioni. In molte situazioni, perché anche lo shopping, non si ha più il tempo di andare in boutique molto spesso a scegliere il proprio vestito, e poi quando entri in un negozio ti senti anche obbligato a comprare, non vuoi magari scomodare le persone, non trovi quello che ti serve. Così hai il tuo tempo, il tuo spazio per fare anche il tuo acquisto, e anche tanti italiani che stanno soffrendo il caro vita. 1 su 3 più o meno sta iniziando a guardare le cose online, perché ci sono saldi tutto l'anno. Tu puoi trovare veramente saldi fino al 50% di prodotti di qualità. Grazie. Quindi, ragazzi, andate online. Grazie mille. Questa è la nostra tecnica di sopravvivenza, allora. Quindi ci vediamo, Francesca. Dove ti possiamo trovare? Dove possiamo seguire le tue avventure? Su francescaonline.it, mi raccomando, venite a trovarmi anche per consigli e suggerimenti. Grazie mille, Francesca. Grazie a te e a tutti voi. Ciao, buona giornata. Spesa online va benissimo, ma vuoi mettere gli incontri che si fanno al supermercato? No, andar via, resta qui, resta ancora. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Stiamo parlando dell'agosto in città e di come cambia la quotidianità, la routine dei giorni di chi vive la città in questo mese che è non più deserto come una volta. Scriveteci i vostri sms al 349-238-6666 oppure chiamateci in diretta per raccontarci le vostre esperienze all'800-24-0024. Di sms ne arrivano tantissimi. C'è Gennaro che dice: trovare parcheggio al centro commerciale diventa molto semplice. Oppure Mauro da Milano: vendo viaggi e almeno fino a metà agosto non rallento, ma il clima umano con clienti e colleghi è realmente diverso, come se si riconoscesse una comune necessità di serenità facilitata dalla maggior tranquillità ambientale. Sì, perché si diceva che ad agosto si cambia un po', si è un po' diversi. Ma se voi non siete andati al mare, non siete partiti per le vacanze, capita che sia il mare spesso che viene da voi, che viene in città, perché non so se l'avete notato anche voi, in città ormai si vedono sempre più i cosiddetti tipi da spiaggia, quelli che si vestono in un certo modo come se fossero appunto al mare, se fossero in riva al mare, quindi colori sgargianti, le scollature improbabili o queste infradito di gomma un po' imprecise sul pavé cittadino. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Serve una giacca qui? Ci vorrebbe una giacca, a volte sì, perché si vedono certi abbinamenti. L'estate così si libera la fantasia, no? E si recuperano certi maglioncini, altro che cerulei, magari fossero cerulei. Ma per parlare di quanto si sente la necessità di portare un po' di mare anche in città attraverso l'abbigliamento, abbiamo deciso di parlarne con un milanese doc, Elio Fiorucci. Ciao Elio. Beh, a me questo mi piace molto, perché mi sembra che porti un po' di vacanza a noi che siamo in città. Per vedere una ragazza in pantaloncini corti, vedere una ragazza in canottiera, cioè come se uscisse dalla spiaggia, questo mi piace molto. Credo che sia anche una buona abitudine, perché questo fatto di essere in divisa sempre, quando sei in città in un modo, quando sei in vacanza nell'altro, cioè quando fa caldo e si può vivere anche in città, diciamo, in modo più leggero, più fresco. Certo, ma visto che insomma sono passate tante estati da quando hai aperto il primo negozio, quindi Fiorucci e così via, ti ricordi qualche estate particolare in cui la gente si vestiva magari in maniera diversa o qualche aneddoto? Dunque, diciamo di sì, perché malgrado tutto gli anni 70, comunque erano anni 70 quando si stava in vacanza, in città incominciava, come dire, insomma c'era la minigonna, che era una scoperta fantastica per l'estate, perché abbiamo visto le più belle gambe abbronzate proprio in quegli anni. Però, voglio dire, c'era una specie di separazione tra il vestire della vacanza e il vestire della città. Oggi la cosa sta diventando sempre meglio, nel senso che le ragazze che tornano belle, abbronzate, non vedono l'ora di poter mostrare anche a noi che siamo rimasti in città quanto siano belle. Certo. Allora, questo a me piace molto. Esibire lo sforzo dell'abbronzatore. Vedi delle gambe stupende, vedi, insomma, quando uno è abbronzata si sente bella e si sente di stare bene e ha voglia di esibirsi. Allora questo qui è giusto che lo faccia anche in città, nel suo paese, nel suo posto dove vive. Giusto. Tu hai una tecnica di sopravvivenza che vuoi dire ai nostri ascoltatori su come passare l'agosto in città, magari? Ma sì, tecnica di sopravvivenza per me è evolvere in positivo quello che sembra negativo, cioè meno persone, allora si sta meglio al cinema, oppure si va al ristorante e si trova più posto, io non trovo la negatività dell'estate in città, anzi me la godo, il fatto proprio di essere in meno affollati e meno, cioè si possono godere delle cose che normalmente non godi quando la città è piena. Certo, tu partirai, ecco, per le vacanze quest'anno? Io andrò in vacanza, sì, e andrò un po' in montagna e voglio fare delle terme, poi vado un po' al mare, però di solito non voglio stare tanto tempo in un posto, perché ho scoperto una cosa, che più posti fai durante l'estate, più ti sembra di aver fatto tanta vacanza. Tanta vacanza. Anche questa... Invece stai sempre fisso in un posto, dici, ho buttato via l'estate perché sono stato lì fermo 15 giorni. Bella allora, tecnica. La mia tecnica è quella di stare, non so, 2 o 3 giorni in un posto, poi scappare, andare in un altro, perché intanto in 2 o 3 giorni, 4 giorni fai in tempo a goderti il posto. Certo. E a capirlo e anche a vedere le cose belle del luogo. Però starci di più è un po', diciamo così, deprimente per me. Perfetto. Sono super attivo. Grazie mille, Elio. Grazie. Grazie, voi. Buona vacanza allora. Buone vacanze, buona città, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 10:34, oggi ad agosto, tecniche di sopravvivenza, stiamo parlando dell'agosto in città e quindi di come state vivendo questo agosto in città, con la lentezza, con la quotidianità di un mese diverso, insomma, anche se non si è partiti per le vacanze. Abbiamo parlato prima di come ci si veste in città e quindi di come si vuole far venire un po' di mare anche nelle nostre città, nelle nostre strade, perché vogliamo sentirci colorati. Arrivano i vostri sms al 349-238-6666. Io sono un tipo che ama vestire ad agosto tutto colorato perché amo il mare ed il sole. E voi com'è che vi volete vestire? Come vi vestite in agosto? Ma chiamateci anche per raccontarci le vostre esperienze del vostro agosto in città e della vostra quotidianità in città all'800 24 00 24. E come vi abbiamo detto prima, oggi abbiamo il secondo ospite che è venuto con noi a bere un caffè per parlare con noi del suo agosto in città e per raccontarci le sue esperienze, e quindi diamo il benvenuto a Valeria Santinoli. Ciao Valeria. Ciao Morena. Allora, ieri abbiamo avuto il primo ospite per questa iniziativa che abbiamo lanciato la settimana scorsa, di venire in radio da noi e raccontarci appunto le vostre esperienze, le vostre situazioni dei vostri agosto. Valeria, come dicevo prima, fa anche un lavoro che può tornarci utile per toglierci lo stress o il malumore, qualora ce ne fosse, di un agosto che si è costretti a passare in città, e ci racconterà le sue tecniche di sopravvivenza. Ma prima di parlare con lei, adesso ascoltiamoci che cosa è successo l'11 agosto con una scheda storica. 11 agosto 3114 a.C. ha inizio l'era attuale secondo il calendario lungo dei Maya. Quante estati in città ha passato l'umanità da allora? 11 agosto 1934. Apre la prigione federale di Alcatraz. Niente in confronto ad un agosto in città. 11 agosto 1999. Eclissi totale di sole in Europa e Asia. Poco male, tanto chi era rimasto in città non lo poteva prendere comunque. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla dell'agosto in città e di come state vivendo la città che si svuota, la città semideserta, oppure la città che si può vivere in modo migliore. Abbiamo anche un ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24 per raccontarci del suo agosto. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Allora, guarda, io mi godo soprattutto il traffico. Ecco. Nella mia paranoia mi sono fatto le tabelle, no? Allora, sappi che pioggia con scuole aperte 70 minuti, scuole aperte ma con cielo sereno 47 minuti. Ah, però. Poi scuole chiuse con tempo sereno 35 minuti, agosto 20 minuti. Incredibile. Agosto tutto l'anno. Agosto tutto l'anno, però con il sole, o cambia se piove? Ma sai, se piove ad agosto, secondo me le moto le usano lo stesso, quindi orca non cambia la volta, perché non è tanto pioggia o sole, più che altro la moto. Però una raccomandazione da fare agli automobilisti: attenzione ai lavori in corso, perché in agosto a volte aprono dei cantieri e uno rischia di fare degli ingorghi peggiori degli altri mesi. Dietro l'angolo c'è il cantiere ad agosto. Esatto. No, però io volevo dire una cosa, vabbè, un po' provocatoria se vuoi. Che un po' sono stanco di questa vicenda dell'agosto in città, perché è una cosa solo italiana. Assolutamente vero. Su questo. Cioè, io sono stato a Londra, a New York, a Parigi in agosto, è come tutti gli altri mesi. Sì, ma è vero. Gli italiani hanno mitizzato. Scatta questo meccanismo, sì. In cui davvero la gente crede di essere sulla spiaggia alle Maldive e invece, ahimè, si trova in Piazza Duca d'Aosta e capisci che la differenza è notevole. Ma per esempio tu, non so, ti vesti in maniera diversa in estate? Anche tu, no, sei uno di quelli... andando in ufficio, se ad agosto sono in città è per andare in ufficio, e quindi andando in ufficio c'è poco da fare. Giusto. Al limite tolgo la cravatta perché ci sono meno riunioni, ecco, quello sì. Certo, ma però allora la tua... è l'unico vantaggio. La tua tecnica di sopravvivenza è comunque godersi questo agosto. Sì, godersi finché si può, godersi effettivamente l'ufficio deserto, il non problema di traffico, magari per la pausa pranzo qualche difficoltà in più a trovare un posto aperto, ma poi magari ci scoprono dei posti nuovi. Ecco, vedi? Ci sono questi aspetti positivi. Grazie mille Carlo, allora, e buon agosto. Ciao, ciao, ciao. Beh, adesso invece parliamo con il nostro ospite che è qui con noi a bere un caffè e a raccontarci di che cosa fa in agosto. Ciao Valeria, allora, qual è il tuo lavoro innanzitutto, che abbiamo creato questo esatto, cosa fai? Ma io sono una cioccolataia. La cioccolataia, ma in che senso una cioccolataia? Nel senso che ho una cioccolateria in Oltrepò Pavese, e quindi per me questo mese di agosto è come quello che prepara le valigie prima di partire, è l'inizio della stagione. Perché in agosto giustamente il cioccolato si comincia a produrre, è come veramente un treno che parte, esce dalla stazione, quindi si comincia a partire rallentando e poi si prende si parte, si comincia a accelerare settembre, ottobre, novembre, poi il botto finale sono dicembre. Sono i mesi più caldi. Sì. Caldi, quindi, anche se non sono caldi. Quindi noi ad agosto ci alleniamo alla stagione, siamo come degli atleti che si allenano prima di andare al calcetto di partenza. Ma fate anche delle prove, non so, di nuovi cioccolatini? Si provano, si testano i nuovi cioccolatini, si vede se il prodotto tiene il tempo, poi la lavorazione delle nocciole, delle mandorle si fa sempre ad agosto perché luglio è un mese un po' più delicato. E così a settembre si è pronti per partenza, via. Quindi le tue partenze, voglio dire lavorative, sono quelle di settembre. Sono di settembre, però agosto mi alleno. La mia tecnica di sopravvivenza è l'allenamento. Quindi ad esempio i miei short break sono lavorativi. Cioè io teoricamente sono a riposo, in realtà poi faccio delle tiratine di 3-4 giorni per tenermi in adrenalina e ma il cioccolato aiuta, no? Con l'adrenalina, sì, in realtà. Sì, ti tiene in forma. Io sono una tossicodipendente, la cioccodipendente. Ma senti, ma tu cosa fai? Dove lo vendi questo cioccolato? Lo vendi in città e quindi vivi la città? Io lo vendo nelle manifestazioni fieristiche più che per lo più, quindi vivo la città e vivo sempre con la valigia. Sono una zingara, diciamo, sempre con la valigia pronta, e vado nelle città italiane, a qualche volta anche all'estero, e porto il mio prodotto. Quindi questa cosa qua è divertente perché si vede proprio i cambiamenti di modo di, cioè sempre uguale, comunque le città sono sempre vive, però vedi anche un po' la provincia come cambia, il modo di prendere le cose. E comunque secondo me Milano è una città meravigliosa ad agosto. Io sei d'accordo con Carlo? Sono d'accordo con Carlo, quindi io che sono in Oltrepò, quindi a 40 minuti, se voglio venire al cinema finalmente vengo a Milano, voglio andare a farmi un giro. Senza metterci un'ora e mezza di macchina. Non c'è la zona ZTL. Vuoi parcheggiare in centro, fantastico. È molto più facile. Senti, ma è il primo anno che fai quindi un agosto in città e rimani a casa, o è sempre così? No, per io scelgo sempre a causa del lavoro di non muovermi ad agosto, ma è una scelta anche. Agosto mi piace viverlo in città, viverlo comunque nella quotidianità, forse perché la quotidianità io non ce l'ho durante l'anno, quindi il fatto di potermi permettere anche di fare un giro in un negozio, di andare a prendermi un gelato, o di venire a Milano a vedere un film, è una cosa che è un regalo che mi faccio. Ma sei una di quelle che si veste anche in agosto come se fosse sei un tipo da spiaggia? No, assolutamente. Io sono sempre colorata anche d'inverno. Beh, fantastico. Senti, ma è una tecnica di sopravvivenza legata al cioccolato, non so, vuoi raccontarci qualcosa? Perché la tecnica di sopravvivenza, ne stiamo parlando di un agosto in città, ma magari con il cioccolato può servire qualcosa anche durante l'anno. Ma secondo me il cioccolato è una cosa veramente da 0 a 90, cioè nel senso puoi usarlo in tutti i modi, ti soddisfa sempre. Io dico sempre che è meglio degli uomini, perché tu lo scegli, te lo prendi come vuoi, bianco, nero, latte. Tu sei più per il fondente? O? Ma io amo tutto il cioccolato, sì. L'extra fondente, devo dire, il 75%. Mi trovi d'accordo. Sì. Mi trovi d'accordo, anch'io sono da fondente. 800 24 00 24 per parlare con noi e raccontarci del vostro agosto in città, quindi le tecniche di sopravvivenza che state attuando per sopravvivere alla quotidianità che, come abbiamo detto, cambia in agosto. I vostri messaggi al 349 238 6666. Raccontateci appunto cosa state vivendo in questo momento. È arrivato un messaggio, dice: ciao, sono Davide, l'ospite di ieri incredibile, avete invitato un altro ospite con passione per la cucina e i dolci, state organizzando un corso ristretto di cucina? Sì, era l'ospite di ieri che è stato con noi, è vero, lui aveva la passione per la cucina. non credo che la radio stia organizzando un programma, ma chi può dirlo? In realtà forse la cucina è, perché è qualcosa che tira sempre su un po' di morale, visto che dobbiamo parlare di tecniche di sopravvivenza. Oggi siamo passati addirittura al cioccolato, quindi stiamo parlando di come fare a sopravvivere ad agosto, e la cucina ci può sembrare, ci sembra una buona cosa. Ma ci sono altre cose anche che subiscono il fermo dell'estate, quindi possono subire dei rallentamenti o addirittura una chiusura totale, e sono, sembra strano a dirlo, ma sono le chiese, perché con i fedeli in vacanza molte parrocchie addirittura cancellano le funzioni del primo mattino e del tardo pomeriggio, per dire, una città come Bologna, oppure a Genova nel quartiere Molo, se si vuole fare un funerale ad agosto può essere problematico, perché manca il parroco e c'è una segreteria telefonica che depista i fedeli verso altre chiese ugualmente chiuse. Padre Leonardo, aspettatemi un momento, mi devo confessare. No, e che cosa puoi avere fatto alla tua età? Me ne devo andare, capito? Avete detto. Ho detto che sei una donna onesta e timorata di Dio. Ah. Me ne devo andare, scusami. Ma quella la colpa è tutta di mio marito. Che ti ha fatto? Si è presa la pillola. La pillola? La pillola per l'imprudenza. Per l'imprudenza? No, no. Dimmi. Padre Leona. Dimmi, come figlio. Si dice quando un uomo... Sì. Non ce la fa più. È stanco. No. E si ammuscia tutte cose. Si ammuscia. Diciamo così. L'impotenza. Da quando si è presa quella pillola. Sì. È diventato un diavolo scatenato. Lui. Padre Leona sta sempre in amane. A tutto l'ora. Sono priva persino di vedere un po' di televisione. E lui arriva di dietro e mi vuole possedere. Gesù santo, e buttala sta pillola. Ehi, è che so shame. Qua ci vuole la confessione, andiamo. L'ho detto io. E voi che fate se avete bisogno di confessarvi? Abbiamo con noi al telefono oggi Don Mauro, responsabile delle attività giovanili della parrocchia di Trecate, in provincia di Novara, perché a Trecate hanno inaugurato delle attività molto interessanti per stare vicino alle persone che soprattutto in estate non possono muoversi e vogliono essere però partecipare alla quotidianità anche della chiesa in questo senso. Buongiorno Don Mauro. Bentrovati a tutti, buongiorno. Buongiorno, ci racconti un po' di che cosa si tratta, insomma, che cos'è questa attività che nella parrocchia di Trecate avete inaugurato? Certo, è un'attività che la nostra parrocchia ha adottato già da parecchi anni, è un'iniziativa che utilizza lo strumento radiofonico, che soprattutto dagli anziani è molto utilizzato, molto, molto utile. Ed è praticamente una radio parrocchiale che si rivolge agli anziani e propone loro soprattutto i momenti celebrativi, i momenti della liturgia, i momenti nei quali vorrebbero magari essere presenti, ma o per il clima che è particolarmente caldo e quindi crea disagio, o magari perché proprio faticano a uscire di casa. Certo. La distanza da percorrere c'è, no? E si fa sentire, soprattutto per chi magari fatica a muoversi, ed è uno strumento allora che permette loro di rimanere comunque in contatto con la parrocchia, in quanto attraverso la radio comunque sentono anche banalmente, no, la voce dei preti della parrocchia, quindi sentono quella che poi è la vita della comunità parrocchiale, che è vero, siamo in estate, però non si interrompe, non finisce, insomma, no? Certo. Quindi si mantiene questo legame, tanta gente lo apprezza molto, anzi devo dire che se magari capita che ci sono disguidi per qualche ragione, non mancano subito le telefonate, no? Delle persone, dei parrocchiani che chiedono: ma come mai? Perché non si sente? Non si sentiva, perché è apprezzata molto, no? Come, uh-huh. Come motivo per rimanere legati alle attività della parrocchia. Chiaro, ma ci sono... Anche d'estate non si interrompe. Chiaro, ma ci sono degli orari particolari o tutto il giorno c'è qualcuno che parla o che tiene un programma? Abbiamo degli orari particolari dove vengono trasmessi soprattutto i momenti celebrativi, i momenti della liturgia, i momenti della preghiera, e sono questi un po' forse anche il cuore, l'essenzialità di un'attività che è quella poi l'attività estiva, ma dove magari ci sono meno momenti, diciamo, di riunione, meno momenti particolari, ma forse c'è più essenzialità anche in questo. Certo. Quindi, ma e le frequenze, per esempio, che magari può essere... La frequenza è una trasmissione limitata al nostro territorio. La frequenza è 94.5, quindi se qualcuno volesse sintonizzarsi con la nostra radio parrocchiale troverà nei momenti in cui in chiesa la comunità è radunata, troverà e potrà partecipare anche attraverso la radio a quella che comunque è la vita della comunità, e anche ad agosto va avanti, insomma, e non si interrompe. Mi sembra un'iniziativa bellissima. Grazie mille, Don Mauro. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Una di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena mentre sei girata verso il mare in questa nottata serena. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666. Ce n'è uno che è anche per la nostra ospite, che è venuta a bere un caffè, e dice: la cioccolata può essere la vacanza delle emozioni. Chissà Valeria che dice. Sì, è vero, lo penso anch'io. Bene, allora Gennaro sarà felice di sapere che ha trovato questa formula, la vacanza delle emozioni. Bellissima, bravo Gennaro, me la rivenderò, scusa. Perfetto, ma abbiamo anche Antonio da Pisa. Antonio? Buongiorno signore. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la sua gentile e garbata trasmissione. Grazie mille, grazie a lei per aver chiamato. E poi volevo riferire di un'attività collegata a queste giornate estive, che è un'attività divertente ma allo stesso tempo utile. Non è un'attività svolta direttamente da me, in realtà, ma da mia moglie. Uh-huh. Premetto che noi siamo pensionati entrambi, quindi insomma, abbiamo tanto tempo a disposizione e cerchiamo di ricordare tempi un pochino più felici, insomma, della nostra gioventù e anche delle nostre terre di origine, qui a Pisa. Uh-huh. È un'attività per me utile, e che suggerisco anche agli altri ascoltatori, è quella di conservare i pomodori per l'inverno. Oh, che bello! È una tecnica semplicissima. Si utilizzano i pomodori tipo San Marzano, no? Devono essere ben maturi. Questo è il periodo giusto, agosto, insomma. È già, è vero. È il periodo migliore. E poi le giornate sono sufficientemente calde, almeno mediamente sono calde, perché si tratta di tagliare in due i pomodori e metterli a seccare al sole. Ma naturalmente bisogna approfittare delle giornate più assolate. Giusto, anche, no? Perché infatti, perché a Milano, perché oggi così, non sarebbe la giornata giusta. Perché così si seccano bene. La tecnica consiste non soltanto nel tagliare i pomodori e metterli al sole, ma di seguire l'essiccamento e favorirlo spargendo sulla superficie dei pomodori tagliati dei granelli di sale grosso. Ma Antonio ci sta dando dei consigli meravigliosi. Grazie mille, anche perché di conservazione semplicissima, e poi diciamo il risultato veramente si vede nel periodo invernale, perché insomma, fantastico, si fa qualcosa con le proprie mani e si è sicuri. Ci si ricorda anche di un agosto, di un agosto che è servito a qualcosa. È stato utilissimo. Grazie mille Antonio. Ringrazio lei. Grazie. Auguri e complimenti per la trasmissione. Grazie mille ancora. Buongiorno. Arrivederci. Sì, ci è arrivato anche un messaggio, infatti, al 349-238-6666. Sto ascoltando il gastronauta, ma pare proprio di sì a quanto pare, perché abbiamo un sacco di ospiti che ci raccontano di cibo, di come preparare, di come essiccare i pomodori, eccetera. Ma adesso vediamo quali sono le nostre tecniche di sopravvivenza. 1. Camicia hawaiana e bermuda in ufficio solo se fate il pubblicitario. 2. Se fate il pubblicitario, la quotidianità di un'estate in città la conoscete solo nei brief dei clienti e credete, non è proprio come ve la raccontano. 3. Sicura che il pareo possa fare le veci del tubino? È vero che lo scandalo del prendisole è roba d'altri tempi, ma attenzione, c'è sempre un limite. 4. Tenete in frigorifero anche i biscotti, il sale, lo zucchero, il tè, il caffè e lo smalto per le unghie. Vi aiuterà a vederlo meno vuoto. 5. Evitate di sostare davanti alla serranda abbassata del vostro panettiere per ore. Non si è addormentato, è semplicemente andato in vacanza. Grazie per essere arrivati fin qui con noi anche oggi. Ringrazio in redazione Vittoria Mussini e Laura Faggin e Paolo Corleoni in regia. Ringrazio chiaramente Valeria Santinoli per essere stata con noi. Grazie Morena. Ciao, ci vediamo quindi con nelle fiere con il cioccolato. Grazie mille per quello che ci hai raccontato e buona giornata. Vi aspetto domani con una nuova puntata sull'agosto in città. Ciao. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione.